Senti una cosa, ma vogliamo fare un attimo i nani, perché gli ascoltatori impazziscono per i nani. Sì, assolutamente. Ma senza chitarra non riesco a farlo. No, ma così è un incipit. Ti mettiamo una base se vuoi. Partiamo un po' con i nani, ce l'abbiamo? Sì, ma è una stupidità, io mi rifiuto. No, mi ma dispiace, ti ripasso adesso. No, aspetta un attimo, aspetta. No, non mi interessa. Ho un urlo per gli ascoltatori. Non mi interessa. Non mi interessa. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ciao David, ciao Giuseppe. L'immigrazione è voluta dal grande capitale. Finché ci sarà il capitalismo, ci sarà l'immigrazione selvaggia. La borghesia aizza gli operai di una nazione gli uni contro gli altri, cercando di dividerli. Gli operai coscienti dovrebbero fare la rivoluzione. Non ho capito, l'immigrazione è dovuta al sistema capitalistico? Eh certo, e gli immigrati chi fanno comodo? Ai padroni. Questo è un fake. No, no, io non sono figlio, io sono comunista, sono comunista. Tu, quando senti un comunista, ti incazzi, però quando senti i fascisti come lì Mauro da Mantova, ma c'è un approccio diverso, capito? C'è una... Aspetta un attimo, ti faccio parlare con Franco, il fascista camionista. Franco? Dai. Sì, dimmi. Hai sentito questo? Dici di essere comunista, questo Simone? Io ci darebbe fuoco come gli extracomunitari, ai comunisti. Ci darebbe. Dai, fascistello del cazzo, stai zitto, va. Puttanella dei padroni, non sapete solo, sapete solo andare al governo perché ci sono i padroni che vi sponsorizzano. Ma non cazzo, non contate un cazzo, nella storia avete preso sempre nel culo. Berlinguer, D'Alema e tutti quanti da massa dei froci, sempre tu e quell'altro che si sente che Rai Uno che andava a froci e l'hanno reintegrato, quello è comunista come te. Ma chi è? Andava a trans e l'hanno reintegrato, come si chiama quel cornuto? Ma stai calco, quello era Rai 3, non era. Quel cornuto che stava a Rai 1 che andava a trans, come si chiama? Ma non dica stupidaggini. Che dice questo? Ah, Davide, Davide, buonasera, sono Parenzo, buonasera, sono Parenzo Stamiglia, Parenzo, Parenzo Stamiglia. Ma quale cretino, tu che parla di tovaglie, di bicchiere, di cose, ma parla di Siccio, che minchia parla della tovaglia. Ciao David, ma ciao, Carmine è un idiota, ragazzi. Carmine, no, ma non è un idiota, amico mio, no. Beh, Carmine, no, è una persona ignorante. Non mi dare dell'idiota ignorante a Carmine, che è un frequentatore di bordelli viennesi. Carmine, hai sentito questo qua? Che cosa ti ho detto? Ma questo minchione, fammi capire una cosa. Ma questo ha detto che sei ignorante, l'espressione dell'Italia peggiore. Ma Ambrogio, sarà Ambrogio sicuramente, perché sono i froci. Solo i froci non capiscono la cultura del bordello, solo i froci. Ma non è... I froci era dei cascicchi del cazzo. Caro David, come va? Ecco, come la va? Ecco. Come la va? Come la va? Amico come mio, va? Io sono contento di una cosa, che il tuo mito, quello per cui ti sei esaltato, quello per cui addirittura ti sei alzato in piedi quel giorno e brindando a champagne, a vino fresco, a tartine, a salmone, a tutto, il tuo mito assoluto, il presidente della Francia, il nuovo padrone della Francia, l'uomo dell'élite, di Rothschild, delle banche e di tutto il mondo possibile e immaginabile, l'uomo che ha sconfitto i fascisti, che ha sconfitto la destra, che ha sconfitto la Le Pen, i migranti non li vuole, amico mio! No, i migranti, ha detto no, io li prendo i migranti, ma solo i rifugiati. I no, migranti economici noi non li vogliamo, i famosi cercatori di felicità, di parenziana memoria. La Francia dice no, merci, no, non li vogliamo, li mandiamo a casa. Ma io sono io a dire a questo punto, Macron, Macron, Macron, forza Macron, che dici tu amico mio, che dici? È una delusione, una tragedia, è... Madonna. Ecco, ma non è neanche la realpolitik, io temo sia anche la relazione con la moglie che lo ha un po'... Che c'entra la moglie, scusa? Ma temo che lo abbia distorto un po' dai temi veri, non lo so, guarda, sono... Ti vedo abbattuto, ti vedo affranto, deluso. No, sono affranto quando ho sentito quelle dichiarazioni di questo uomo straordinario che pure viene dalle élite francese, un uomo che voleva rilanciare l'Europa, ha chiuso, guarda, io mi aspettavo che aprisse i confini, invece li ha tenuti chiusi, ci sono questi cercatori di felicità che da 20 miglia cercano di andare in Francia. E invece lui col chiavistello ha tenuto chiusi i confini. Noi vogliamo solamente i veri rifugiati, e ha ragione, parla come Salvini, dice ecco, le stesse cose di Salvini, amico di mio più. Ti assicuro, sono veramente affranto, mi aspettano proprio, anzi io mi fermerei qui, guarda, ti chiedo scusa perché ma non... te, adesso arriva un'altra botta per te, perché ragazzi miei, è tornato il governatore del mondo De Luca a dire sì al blocco dei porti e i centri di accoglienza in Africa. De Luca, numero uno, senti. Io credo che sia arrivato il momento di prendere decisioni drastiche, anche il blocco dei porti. Questo problema è risolvibile in un solo modo, creando centri di accoglienza nel Nord Africa. Ragazzi, allora, il direttore di Radio Padania non direbbe cose diverse, magari con un altro stile, certamente, ecco, con un altro stile, sì. E già questo fa la differenza, vecchio mio. Non fa nessuna differenza. De Luca, ragazzi, si sente profumo di elezioni, questo è il punto. Si sta avvicinando la campagna elettorale. Senti Nerinelli come sbatte. No, a lui il Partito Democratico. Ma dico il Partito Democratico in generale. Senti gli anelli miei come sbattono quando dico si sta avvicinando la campagna elettorale, e adesso questi del PD che hanno accolto migliaia e migliaia di persone, fottendosene fino adesso dell'accoglienza, costruendo dei lager, portando la gente qui e abbandonandola, sì, è così. Questo è successo. Non hanno costruito proprio nulla. Adesso ti sento perfettamente, Davide, devi restare in questa posizione, ti sento perfettamente. Non hanno costruito, no, ma è la depressione, sai. Allora, amico mio, siccome si sta avvicinando il periodo di campagna elettorale, non sapremo se è a dicembre, a già marzo, probabilmente alla fine della legislatura, non lo so, non mi interessa, però adesso il PD tenta la grande riconversione. Parla con linguaggio quasi leghista. Avete sentito De Luca? Sì al blocco dei porti. Se qualcuno osava dirlo, se qualcuno era dalla parte del mitologico Zuccaro, che più o meno diceva la stessa cosa, certo, senza un programma, veniva attaccato. La Boldrini e gli altri dicevano: sono tutti pericolosi fascisti, nazisti, no, antidemocratici, non volete l'accoglienza. Senza una prova, il signor Zuccaro quando disse quelle cose non aveva in mano nulla per sua stessa. Sì, ma lascia perdere, lì era lo spunto, la forza, la luce che ci dava, un'illuminazione nuova, ma nel buio luce della demagogia. Deve fare... Ma che cosa dici? Quello deve fare le indagini, non deve dare spunto. Ma senti ancora De Luca, ti prego, senti ancora De Luca, perché mi sta facendo emozionare, quasi vengo, guarda, ti giuro, mi faccio una pipa davanti a De Luca oggi. Oh mamma mia. La verità ci dice che c'è una percentuale di irregolari che si orientano verso comportamenti delinquenziali. Mi è capitato di verificare direttamente gruppi di immigrati che diventano bande urbane. Beh, amico mio, ma cosa sta succedendo? Cosa succede? No, ma qui ha detto anche probabilmente una cosa vera, infatti, non è che lo si critica. Ho capito. La differenza che c'è tra una forza di governo e una forza che invece alimenta la rabbia e la paura sta tutto anche nel modo in cui tu affronti la questione, e quindi lui non parla con un linguaggio da uomo che vuole diffondere la paura. De Luca non diffonde la paura, non è questo il suo obiettivo. Non dire stupidaggini, c'è la grande riconversione, diciamo la verità. Poi parla anche dei parcheggiatori abusivi, di questuanti a Salerno, così per dare un tocco di legge e ordine in più. Ho registrato in particolare a Salerno una esplosione di parcheggiatori abusivi e di questuanti. Mi è capitato di contare domenica scorsa, davanti alla chiesa dei Cappuccini a Piazza San Francesco, tre questuanti, tre, uno, due, tre, che marcavano i fedeli che uscivano dalla chiesa. E la cosa incredibile è che quando mi sono fermato per dire a uno di questi: cerca di andartene, quasi quasi dovevamo fare lo scontro fisico, chi sei tu e chi sono io. E non manca mai l'imbecille, nostro concittadino, che dice ma come sei cattivo. E io do sempre la solita risposta, ma perché non te lo porti a casa tua se sei così caritatevole? Amico mio, qui siamo di fronte al top assoluto, diciamo la verità. De Luca che risponde nello stesso modo in cui gli ascoltatori ogni tanto rispondono a Parenzo. Parenzo, se vuoi gli immigrati, perché non te li porti a casa tua? De Luca dice lo stesso. Se volete, i questuanti, portateveli a casa vostra. Poi voglio ricordare che erano 3 questuanti. Forse nemmeno io avrei fatto così casino come fa De Luca. 3 questuanti all'uscita dalla chiesa, cosa anche abbastanza normale. Perché ma guarda che chiedere la carità è un diritto alla fine per chi non ha nulla. Sì, non rompere i coglioni alle persone non è un diritto, rompere ma i coglioni. Ma non è rompere, ma perché ti rompe le scatole uno che ti dice mi dai un euro a me per mangiare, a me devo dire la verità. No, quello no. Però a De Luca sì, evidentemente. A De Luca ha dato fastidio. Quelle per quei cingalesi fantastici. Sì, ma parla di De Luca, non parlare di altre cose. No, io non voglio parlare di De Luca, voglio parlare di quegli straordinari cingalesi che ad esempio ai semafori non vuoi parlare ti vendono di Luca, sì. Ti vendono i fiori, magari hai dimenticato di portare i fiori alla tua fidanzata. Stai girando. Tu dici per i questuanti servono, quelli che chiedono la carità o comunque quelli che vendono i fiori, gli accendini servono alla comunità. Certo, offrono un servizio, dici tu. Offrono un grande servizio, è una cosiddetta economia sommersa, che poi tanto sommersa non è, ma insomma sono lì, cercano di lavorare, cercano la felicità, vanno anzi incoraggiati. E intanto la Chiesa resta sulla posizione parenziana, incredibile, ragazzi. C'è una certa coerenza, però, Monsignor Sigalini, ospite appunto di Parenzo, si adegua alla linea parenziana. E beh, così è, ragazzi. Ma detti tu la linea ormai, non è che Sigalini non conta un cazzo, diciamo. Conta no, più Monsignor no. Sigalini o Parenzo? Conterà più Parenzo di Monsignor no, Sigalini? No, per me non sì, direi. Per me no, se no, c'è. No, no, ma io se devo sentire qualcuno, è che sento Monsignor Sigalini. Che cazzo me ne frega di quello che pensa Monsignor Sigalini? Che è il solito portaborse di Francesco. Scusa, è un portaborse del capo. È un portaborse, almeno tu parli in autonomia. Non è che parli a nome di Cairo, a nome di qualcuno, tu parli a nome tuo. Monsignor Sigalini, Monsignor Sigalini parla a nome, è il portaborse del Papa, uno dei tanti portaborse del Papa, diciamo la verità, così è. Senti. È una... Ma io sono assolutamente contrario, anche perché ci sono delle leggi internazionali che obbligano i porti ad accogliere le persone che sono in difficoltà. Ci sono delle leggi internazionali, qui si va contro le leggi internazionali. Contro la chiusura dei porti. Chiudiamo tutti i porti, questo è il programma della Zanzara. Parenzo al contrario, fermi tutti. Cruciani, la moglie di Macron è un cesso. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presento la Zanzara. Perché tu sei riccione, tu sei, querelami, merda, querelami, tu sei riccione, come Macron. Giovanni, amico mio, dove sei? Giovanni, ti prego, chiama Giovanni, palesati come Macron. Allora ragazzi, voglio farvi ascoltare adesso, dopo l'invocazione di uno degli ascoltatori per un ritorno di Giovanni, credo da Reggio Calabria, grande ascoltatore della Zanzara, insieme alla figlia. Ma speriamo quello, di no. È quello che disse una volta, come Macron. Vedremo se tornerà, non lo so, certo non lo vado a cercare io, signor Giovanni da Reggio Calabria. Però voglio farvi ascoltare una cosa molto forte. Da parte di un signore che abbiamo già ospitato qui alla Zanzara, uno che si può dire dal punto di vista mediatico è andato avanti da solo, certamente, però abbiamo portato noi all'attenzione del grande pubblico, che si chiama Antonio Locascio, un marchigiano verace. Antonio Locascio poi è stato anche preso da altri siti, eccetera, eccetera. Spara zero contro, è incazzato per il fatto che i terremotati ancora sono in mezzo alla strada, ancora la ricostruzione deve essere completata, eccetera, eccetera. E spara zero contro Fazio, la RAI e lo Stato, che versa soldi alla RAI, dà soldi alla RAI a Fazio e non ai terremotati. Naturalmente la cosa è molto discutibile. Sentite queste parole fortissime. Ma porca puttana, no? Ma porca puttana, troia vacca! Ma chi cazzo me ne frega a me di Fabio Fazio e di dare i soldi pubblici a questo stronzo? Allora, visto che, cara signora Maggioni, il trauma di perdere Fazio sarebbe stato un trauma incredibile, il trauma per i 25.000 terremotati, che ancora è tutto fermo, non solo non è stato ricostruito un cazzo, ma ancora ci sono le macerie dappertutto, nelle zone terremotate. E i soldi pubblici vengono spesi per una semplice persona, per di quattro cazzate, per uno pseudo giornalista dei miei quattro coglioni? Vaffanculo, siete delle merde, siete degli stronzi, avete rotto i coglioni! Cara signora Maggioni, a due settimane fa, per sua informazione, visto che lei non vive nelle Marche, ma glielo dico io, si è ammazzato un altro terremotato perché non c'è un via d'uscita per queste persone. Allora avete rotto i coglioni, avete rotto i coglioni, avete rotto i coglioni, siete degli infami, siete delle merde. Volete far morire le Marche, volete far morire l'Italia, ma non ce la farete, non ce la farete, non ce la farete, non ce la farete, vaffanculo, Fazio, 11 milioni e 200 mila, calci nel culo, stronzi, ciao. Comunque la cosa più bella è quando finisce con questo ciao, ciao, ciao, ciao, detto anche in maniera soft. Allora, commento veloce parenziano a questa invettiva da parte di Locascio. Tu no, dici le due cose, no, tu lo consideri un pazzo demente, diciamo la verità. No, io non so chi sia questo povero imbecille al quale tu vuoi dare la parola. Cioè, io fino a pochi secondi fa non ne conoscevo l'esistenza. Ma perché tu sei lì nei palazzi dorati, nei tuoi studi televisivi, stai lì arroccato, il web non ti riguarda. Quello che succede nell'Italia non ti riguarda. Bravo. No, non è l'Italia vera. Sei un criminale. Non è l'Italia vera questa. Questa è l'Italia grossier. È l'Italia che beve nelle bottiglie di plastica. È un'Italia che non è maggioranza, ovviamente, è la minoranza rumorosa. Ma in più, questo qui è un criminale. Ma è un criminale perché? Crimine, tu peggio di lui. E tu peggio di lui? Perché? Perché lo mando alle 18:48 su Radio 24 per esatto. Questo? Quello è un che aspetta, fermo, che è successo? Fermo, che è successo? Mi arrabbio, diffonde disinformazione quell'uomo, dice una cosa non vera, è di una gravità inaudita, guarda. Io voglio che qualcuno prenda posizione, è di una gravità. Stai zitto, ciucciacazzi. Allora ragazzi, prima di dare spazio ovviamente ai vostri interventi, come al solito qui fino alle 21 non molliamo mai, 800 24 00 24, una vita che non dicevo questo numero, 800 24 00 24. Con Parenzo che sta a Pescara, non mi muovere quel telefono perché sennò mi incazzo. Prendi il tuo champagne. Lo muovo, ma ti saluta moltissimo il mio ospite che mi ha, non diciamo il nome perché magari non vuole, ti dico solo che ha una collezione meravigliosa di cosa? Possiamo dirlo questo? Sì, no. di champagne, bravo. Ottimo, però fatti versare lo champagne e poi ci dici anche la marca, perché poi va valutato. No, la marca non posso, dello champagne. Lui deve solo champagne francese, perché mi spiegava, ecco questo te lo posso dire, mi spiegava che la regione dello champagne in realtà ha soltanto, ma se voi ne parleremo, due etichette eccellenti. No, ne parleremo dopo, prima ti faccio ascoltare questa cosa, per far incazzare un po', se ce ne fosse bisogno, le persone. Allora la signora Fornero ha detto una cosa incredibile. Devo darle ragione in questo caso, però, assolutamente ragione. Contro il Papa. Senti, contro il Papa. Sai che il Papa ha parlato della questione delle pensioni d'oro, delle pensioni d'oro, ha detto. Certo, ma sì. Ha detto anche che è sbagliata l'idea di mandare la gente in pensione più avanti, perché altrimenti non si dà spazio ai giovani. Secondo lei questa è una minchiata? Ha aggiunto anche che il Papa è troppo avanzato negli anni. Cioè, dovrebbe lui forse pensare di andare in pensione. Che ti voglio farti sentire prima lui che stappa la bottiglia di champagne. Hai un minuto? Vai, veloce. Questa magnum, vediamo. Sì, scusa, mettiamo qua vicino. Questa magnum. Fammi sentire lo sta. Saluto, caro. No, fammi sentire lo sta. Sì, ciao, Gianfranco. Vai. Non diciamo il nome, ecco, sta aprendolo perché insomma è un'operazione. Fallo aprire. Vai. È un attimo che lo sta aprendo piano. Sì. Vedi, sta togliendo il. È bello fresco, no? Il proletario. A quanti gradi deve essere lo servizio? partito lo champagne, proprio dalla ghiacciaia quasi, no? Sì, sì, ecco, dalla cantina. Vai, vai, vai. Fammi sentire, ecco. Aspetta, sta togliendo il castelletto che c'è sopra, sì. Senza la sciabola. Sì. Senza la sciabola, attento, sì. Ecco. Eccolo qua, si è sentito. Allora, il proletario Parenzo, vicino ai migranti, vicino ai migranti, stappa champagne il venerdì alle 18.55. La Fornero contro il Papa. Posso dirti una cosa? Cioè, tutte le ore sono buone per bere champagne, non è che alle 18.55 è più grave. La Fornero contro il Papa, e ci sentiamo dopo. Con la Fornero contro il Papa ci sentiamo dopo. Tutto dipende dal concetto di anziano. Se guardassimo con gli occhi, come dire, di chi difende il pensionamento a età giovane, il Papa dovrebbe essere in pensione forse da molti anni. Ed è venerdì. Crucia fino a notte. Non mi rompete i coglioni. Lei è un insultatore che crea dei problemi alle persone che sono povere. Ma non mi rompere i coglioni, stronzone. OneExpress.it. OneExpress! Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta La Zanzara. Bisogno che specifichi lo champagne francese. Lo champagne è solo francese. E quel cazzillo che tu chiami cappelletto si chiama capsula. Se non sei all'altezza, miserabile, beviti il tavernello nei bicchieri di plastica, stronzo! Stronzo! Basta, basta l'Italia che beve nelle bottiglie di plastica. Ma sei un coglione, ma basta Parenzo. Ma ora ci hai rotto il cazzo con questi tuoi razzismo classista. Sei un razzista classista. Basta, hai rotto le palle. Basta, falla finita, imbecille, snob di merda. Io prego solamente il Signore che ci sia della gente a Pescara che in questo momento stia andando a cercare Parenzo per dargli due ceffoni. Pezzo di merda! Sei un pezzo di merda! Parenzo, prima o poi te vengono a scasso tutto! Io però ragazzi, in questo caso il signor Parenzo ha semplicemente aperto una bottiglia di champagne, adesso voglio dire, ecco, cioè la bottiglia di champagne non si nega a nessuno, per carità esistono, no, anche champagne. Non è neanche mia, perché è di questo carissimo amico che ha fatto questa generosità. Ha aperto una bottiglia di champagne, capisco perché molti di voi stanno adesso viaggiando, effettivamente la cosa può sembrare anche una beffa per molti di voi che non riescono magari a comprarsi una bella bottiglia di champagne francese, eccetera, eccetera. Però, amico mio, se uno vuole aprire una bottiglia di champagne, che peraltro non è sua, aprisse una bottiglia di champagne, non capisco qual è il punto. Comunque. Ecco, appunto, bravo, meno male. Allora, l'altra cosa incredibile di Macron, oltre al fatto che non vuole i migranti economici, ma solo i rifugiati, fottendosene dell'Italia, al di là delle parole, della cooperazione, cose ridicole. Quando qualcuno fregandosene dell'Europa, e questa è la cosa che più mi colpisce al cuore. Sì, perché ecco, voglio dirti questo, poi dopo veramente chiudo, perché ma che chiudi cosa che manca ancora oggi, due ore. Che dici? Oggi la trasmissione prende una brutta piega nei miei confronti. Però voglio dirti solo e non questo. Hai visto ancora nulla, perché ecco, mi sa che dopo ho intenzione di chiamare il signor Locascio. No, ma voglio dirti questo, ti lancio questa che guarda, te lo giuro, non è una provocazione, deve sparire dal linguaggio politico il cosiddetto interesse nazionale. L'unico interesse è l'interesse europeo. Cioè sei una vergogna su questo. Solo in termini di nazione Europa. Io quando sento parlare di nazione dico l'Europa, mi auguro. No, sei vergognoso, l'Italia... dai. No, ti voglio dire di... Per... Dai, però parla bene, non ti staccare da quel telefono, se no non si capisce, dai. Voglio dirti che per me l'Italia non esiste, esiste l'Europa. Esiste l'Europa con le sue con l'Italia, la Francia, la Germania, la Spagna, la Grecia. Ma la nazione è la nazione europea. Cominciamo da oggi. È una stronzata. Io mi sento italiano e l'Europa mi fa orrore. Per cui questo è il punto. Io mi sento italiano e l'Europa mi fa orrore. Certo, punto e basta. Sono italiano, ma l'Europa a me mi fa orrore. Quella bandiera è una bandiera che non riconosco come mia. No, me ne fotto della bandiera europea. È la nazione europea. Cominciamo a educare al linguaggio. Ma quello lo dici tu. Allora, io tra l'altro, gli altri fanno i cazzi loro. Ti dico una cosa. Il signor Macron, che tu hai tanto esaltato, lo sai che cosa ha deciso di fare? Non vuole fare l'intervista con i giornalisti per il 14 luglio, per la festa francese, perché dice che il suo pensiero è troppo complesso. Ti giuro, ha detto così. Ti giuro, vallo a leggere, ma non leggi un cazzo. Il suo pensiero è troppo complesso ed è troppo intelligente, cioè troppo intelligente lo dico io naturalmente, c'è un pensiero troppo complesso, troppo articolato per un botta e risposta con i giornalisti, ti giuro, mi ha detto così. Sembra una sciocchezza. Io in questo lo trovo meraviglioso, però lo trovo meraviglioso in questo. Intanto, caro Parenzo, ti avverto che a Como un autista, la notizia è stata confermata che potrebbe essere un fake, qui siamo tutti circondati da fake e da notizie finte, a Como un autista ha fermato l'autobus di linea per fare sesso, ovviamente l'autobus vuoto, per fare sesso con una passeggera, è stato denunciato. Pare che rischi anche il posto, una sanzione, ma eccetera, guarda, eccetera. È una notizia facile da verificare. Io ho un'amica carissima che si chiama Stefania Cioce, che vive peraltro, che a Como? Sarà a Como? Una delle autrici di In Onda, e vive a Como. È una notizia facilmente verificabile. È la moglie del dottor Cremonesi del Corriere della Sera. Lei è comasca e quindi lei potrebbe confermarci. Sì, la notizia è confermata. Pare che a un certo punto sia stato sorpreso che aveva messo le quattro frecce, si è alzato e la signora con cui si stava intrattenendo in realtà gli stava facendo una bella pompa. Questa Vabbè, è la notizia. La notizia completa. La notizia completa. No, notizia normale, notizia normale. L'altra cosa incredibile che ho notato negli ultimi giorni, da tempo che non mi occupavo della signora Daniela Martani. La conosce la signora Daniela Martani, no? Come no? La signora vegana. Certo. La signora vegana Daniela Martani, che se l'è presa con me quando io ho esposto le teste di agnello durante la Pasqua qui in studio, ma che me ne frega a me se quella se l'è presa. La signora Martani, sai, a un certo punto è uscita la notizia che i bambini malati di cancro hanno ordinato una cena a domicilio e una paninoteca praticamente gli ha offerto la cena e c'erano degli hamburger, delle patatine. Ovviamente era una paninoteca, dunque ha offerto hamburger e patatine ai bambini malati di cancro. Tutto si può dire di questa storia, anzi nulla si deve dire di questa storia, no? Cioè, un bel gesto da parte di una paninoteca che offre la cena ai bambini malati di cancro. Frase della Martani. Fermi tutti, ascoltate tutti. Una nazi vegana, la signora Martani, risponde in questo modo. Danno da mangiare a bambini malati di cancro hamburger e patatine fritte? Sono da arresto. Cioè, di fronte a una storia che è quella di bambini malati di cancro che ordinano la cena a domicilio e la paninoteca offre la cena a questi bambini, una malata di mente come la Martani dice che danno da mangiare a bambini malati di cancro hamburger e patatine fritte e sono d'arresto. È roba incredibile, bravo. Incredibile. Una vergogna assoluta. Riccardo da Livorno, vai. Sì, pronto. Dimmi. No, niente, volevo offendere pesantemente Parenzo, perché non se ne può più con questo suo razzismo classista. Veramente, è proprio una vergogna. Ma sei in viva voce, sei in viva voce, Riccardo? No, non sono in viva voce. Mi raccomando. Da parte mia, né razzismo né tantomeno classismo. Sì, ma perché il classismo non c'è, perché sto parlando con lei pur non sapendo nulla di lei. Fumante alla mia faccia, imbecille, te apri la bottiglia di spumante così, stai dando fastidio proprio nell'animo, capito? Sei un razzista classista, ma che fermo te, falla finita, basta. Ma perché, scusa, perché, perché secondo te aprire la bottiglia, stappare la bottiglia di champagne è una cosa razzista? Scusa, aspetta. Nella maniera come lo fa e come lo dice. Poi, poverini, quegli altri devono essere aiutati, poverini. E lui apre la bottiglia di champagne alla facciaccia di tutti, capito? No, non è che ha detto alla facciaccia di tutti, eh. Cioè, non... non l'ha detto, ma l'ha fatto. Vabbè, cioè, ho capito, ma... No, volevo dirle questo. Intanto non si tratta di spumante, ma si tratta di champagne, che è una cosa diversa, questo poco male, ma insomma, lo spumante è una cosa, lo champagne è un'altra. Precisiamo, primo. Precisiamo. Secondo, precisiamo. No, lo dico, come dire, ad adiuvandum, come dite allora? Voi. Sì, allora? Come dite voi. Primo, quindi, questo è la prima cosa. Secondo, non l'ho aperto alla facciaccia vostra, ma questo carissimo amico che ha l'onore di ospitarmi, sì, e che io ho l'onore di essere a casa sua, vabbè, ha deciso lui di aprire questa bottiglia e io l'ho bevuta volendo condividerla con voi, e quindi grazie. Insomma, vabbè, Riccardo, sei Riccardo sei incazzato perché, come ho detto io, l'amico dei proletari, l'amico dei migranti... Cioè, ma almeno statene zitto, no? Fallo per conto tuo, ma non ce lo venire a spiattellare a noi. Beh, però da un certo punto di vista, da un certo punto di vista è anche onesto. Gli piace lo champagne e lo beve, non per questo si sente in dovere di non parlare dei migranti e di cose di queste cose, no? Io di Riccardo e del suo parere, aspetta, me ne sbatto. Ma figurati, io del tuo champagne, ficcati la bottiglia al culo e apritela. Cosa devo fare? Ma te sei fuori di testa, ma la devi far finita, fai incazzare la gente, ma le sentiti i messaggi? E vabbè, ho capito, non è che i messaggi sono una rappresentazione del paese, sono una piccola parte del paese. Ah, no, allora... no, sono una parte del paese, sono una parte del paese, non c'è dubbio. Certo. Ciao Riccardo, ti abbraccio, ciao. Savino, provincia di Cremona, vai Savino. Buonasera, vai, Cruciani. Niente, volevo solo intervenire riguardo alla signora Fornero, alla cazzata che ha detto. Che ha detto? Non mi pare che ha detto una cazzata, però. Ma secondo me ha detto una grande cazzata. No, non ha detto una cazzata. Ma che sul Papa, sulla pensione del Papa? No, lasciamo stare il Papa, che sia il Papa o Padre Eterno, non mi interessa. Ma non si può dire, vabbè, il Papa. Praticamente sarebbe in pensione da 20 anni. Il Papa potrebbe star lì fino a 90 anni. Ma sì, ma chiaramente il concetto penso fosse una bene. Ma perché il concetto? Ragazzi, più si lavora, meglio è. Cioè, è una, la Fornero quando dice che non hanno funzionato le teorie, se lo mettiamo un po' sul serio, le teorie di chi sostiene che più si va avanti e più si penalizzano i giovani, cioè più i vecchi lavorano e più i giovani sono penalizzati. Chi ha voluto mettere in pratica queste teorie sono andate male, non hanno funzionato. Vabbè, ma l'abbiamo messa troppo sul serio, adesso ci fermiamo un attimo. Fermo. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Naturalmente. Essendo un radicale della maggioranza silenziosa, voglio dire al presidente di partito David Parenzo che io ho una spazzola da WC di design da 40 euro. Ti appoggio, David. Comunque, Parenzo, altro che maggioranza, quello che vorremmo veramente è una maggiorata silenziosa. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Riva sta male, sento dalla voce che sta male. Pronto, mi senti? Dottor Cruciani, mi sentite? Allora. Allora, parlavo prima della Martani, mi ero scordato quella sua... volevo dire una cosa al volo. Adesso tra qualche minuto apriranno in diretta mi dicono, poi ti spiegheranno loro, un vino tedesco che è prodotto in una zona particolare, Treviri, che è la città che ha dato i natali a Marx, come tu ben sai, sì, dove ci sono dei vitigni talmente particolari che producono questo vino. Adesso poi il mio amico Riccardo magari tra qualche minuto ti spiegherà. No, non c'è bisogno, è importante che mi dica il prezzo di questo vino, quanto costa questo vino. Adesso te lo dirà. No, sì, no, sì, ma sì, fatelo dire, adesso non è che dobbiamo fare creare... No, per carità, è un vino tedesco, però volevo annunciarti questo, un Riesling tedesco prodotto a Treviri, poi ti dirò io esattamente quanto... No, il prezzo di questo vino tedesco, vorrei capire, il prezzo... Ora, no, dico quale persona, ecco, procediamo pure, grazie, adesso vai, adesso ti dico. Parenzo, sei un mito! Non ascoltare tutte quelle testine di cazzo, plebei! Parenzo, beviti quello che cazzo ti pare. Allora, stavo dicendo della signora Martani. Sì. Allora, la signora Martani, qualche giorno fa, me l'ero conservato, poi mi sono scordato di dirlo, sì, anche qui, di fronte a una notizia... Orso ucciso allo zoo, uno zoo in Germania, nella città di Osnabrück. Orso ucciso perché esce dal recinto, eccetera. Non mi ricordo le circostanze, eccetera. Ma il commento della Martani è questo. Sentite bene, perché c'è della patologia, secondo me. Gli esseri umani sono una specie da spazzare via da questo pianeta. Gli esseri umani. Ma non so se hanno sbagliato allo zoo, perché hanno ucciso quest'orso. Gli esseri umani sono da spazzare via da questo pianeta. Ma ragazzi, ma qui è... Cioè... Mi sembra una follia assoluta. Tra l'altro, a proposito di orsi, se non ricordo male, quel signore ex leghista, il deputato Boso, ti ricordi? E come no, me lo ricordo, signor Boso, sì, ecco, signor Boso. Quel personaggio che a me sicuramente non piace, quello si vantava addirittura di mangiarli gli orsi. Sì, come no, certo, no? La carne di orso, certo. Vorrei dire due paroline, prima di tornare con gli ascoltatori, nei confronti di una tra signora... Poco, vuoi sapere il prezzo di questo vino tedesco o no? Sì, dimmi. No, il prezzo, no, io voglio sapere solo il prezzo. Solo il prezzo. Il prezzo di questo vino tedesco, caro, qual è? Di una bottiglia? Dipende dal vino, ma insomma, una bottiglia eccellente a quanto può andare. Anche 200-300 euro. E quello là che state stappando? No, quella che stiamo stappando adesso... Lui 50? Dice vale 50. Vale soltanto, ha detto, vale soltanto 50 euro. 50 euro di bottiglia di vino e vai. No, però non è una cosa incredibile. Allora, ragazzi, vorrei dire due paroline sul segretario di un sindacato di cui non ce ne frega assolutamente nulla, che è la CISL, di una signora che si chiama Furlan, che sicuramente incontrerà il favore di Parenzo, come al solito. La signora Furlan. La conosco benissimo, è il segretario della CISL. Sì, una persona mi per bene. Molto per bene. Sì, sì, Anna Maria Furlan, assolutamente. Oggi ha detto, oggi ha affermato la seguente cosa. Sentiamo. Basta calpestare la dignità delle donne. Punire i clienti delle prostitute. Ottimo. La CISL raccoglierà le firme, le firme per una legge per punire i clienti. Ottimo. Io sai che ottimo. Non allora ragazzi, amici miei, il paese ha tanti problemi. Che la CISL, sindacato di cui bisognerebbe controllare gli stipendi, con un passato di stipendi per i capi dei sindacati, insomma, tutto da discutere, come sapete, no? Tutto passato. Da discutere. Si interessa, non lo passato. So adesso, non lo so. Sicuramente i pensionati, i dirigenti della CISL pensionati non prendono come i lavoratori normali, ma lasciamo perdere questo argomento. Questi qua che cosa fanno con tutti i problemi del paese? Raccolgono le firme contro per punire i clienti? Io voglio capire, tutti gli iscritti alla CISL, ci saranno quelli che ci sono ancora rimasti iscritti, ci saranno una marea di puttanieri, gente che sicuramente va a prostitute e soprattutto facendo così la signora Furlan ammazza il lavoro delle prostitute. Ammazza un lavoro. Ma cosa vuol distrugge dire, un'economia. Mettiamo che la cosa vada in porto e che vengano puniti i clienti delle prostitute. Ammazza un lavoro. Il sindacato che ammazza un lavoro si dovrebbe vergognare di questa cosa qua. Raccogliere le firme contro la prostituzione, cioè contro i clienti delle prostitute, vuole distruggere un'economia, vuole distruggere gente che lavora normalmente. Lei fa il segretario della CISL, una prostituta alla stessa dignità, fa un lavoro che è ugualmente degno, la smettesse di fare queste buffonate e si occupasse degli stipendi, dei lavoratori, eccetera, eccetera. La signora Furlan, che non conosco, che posso anche apprezzare, ma che giudico per questa cosa qui. C'era uno che è andato a prostitute, sono arrivati i vigili, non stava facendo un cazzo, perché? devono rompere i coglioni a chi va a puttana, io ancora non l'ho capito. Silvano da Bergamo, vai Silvano. Pronto, buonasera. Dimmi Silvano, dimmi, dimmi. Niente, io diciamo che da lunedì mattina alle 2 che sono in giro con il camion, sono andato in Inghilterra senza ancora andare a casa. Sì. E adesso sì. Sento questo Parenzo, quel testa di suino di Parenzo. Oh, che ha fatto adesso? Che fa pubblicità occulta a chi? Tutti i suoi amici. Pubblicità occulta per lecca culo. Ma perché? Con lecca piedi. Ma perché, scusami? Adesso non è che si può trasformare questa serata in una specie di patibolo. Che ha fatto? È un lecca culo, un grandissimo ma lecca perché? Culo. Ma perché? Perché? Dimmi, spiegami. Perché fa pubblicità, ci viene a prendere per il culo. Ci viene a prendere per il culo, gente che stiamo lavorando. Viene a rompere i coglioni che stappa le bottiglie da 200-300 euro. No, momento. Ma ci stai prendendo per il culo, Parenzo, piantala di prendere per il culo la gente che lavora. No, io mi trovo. Specifichiamo, aspetta. Ma sta lavorando, lavora Parenzo, lavora in televisione e alla radio, allora specifichiamo. Mi trovo ospite a casa di questo grazioso amico, il quale... Amici proletari, andate a casa di questo qua a Pescara, andate all'assalto della casa dei ricchi dove stampano bottiglie di champagne. Dovrebbe dirci dove abita, dovrebbe darci l'indirizzo di casa sua, no, che ci presentiamo lì una domenica a mezzogiorno. Tutti a mangiare a casa sua, vediamo cosa fa. Invita qualche camionista. La posso invitare molto volentieri, caro. Invitami, però poi io non rispondo di quello che può succedere, perché ormai stai esagerando. Io sono sicuro che se ci attovagliamo con questi amici che ora mi ospitano, aggradirai anche tu. Il vino tedesco che stanno per aprire. Il vino tedesco te l'ha già detto quell'altro dove te lo devi mettere il magnum. Scusami, gentile. Precisiamo solo questo, il magnum. No, precisiamolo per dove. Sì. Devo dire la verità, che hai fatto? Dove te lo devi mettere, vero? Non no, è che te lo il devo magnum, ripetere. No, sì. Scusi, per precisazione, il sì. Magnum era lo champagne. Il sì. Vino tedesco sì. Non è magnum. Sì, però bisogna dire la verità, qui siamo in Italia, Parenzo ha stasera la sorseggia a champagne a vino tedesco. Qualcuno si potrebbe incazzare, già mi stanno chiamando delle persone produttori di vari vini italiani. Sì, hai nominato lo champagne e poi il vino tedesco, che francamente non è molto rinomato. No, però evidentemente io credo sì. Che siccome la serata è molto lunga, mi hanno promesso una degustazione, arriveremo anche agli ottimi vini italiani. Io ho fatto una discussione con Paco, che fine ha fatto? Ha detto che andava via dall'Italia. Io spero che sia già preparate le valigie. A me non mi pare che questo Paco sia cresciuto alla fondazione Einaudi. Speriamo che se ne sia andato, perché è un po' che non si sente. Signor Silvano, dove stai andando te con il tuo camion? Io arrivo dall'Inghilterra, Belgio, Olanda, sono a Milano e devo fermarmi qui a dormire perché qualcuno si è inventato la legge che non puoi più guidare di 10 ore. Quella è per la tua sicurezza, però, amico mio. Ma sono a mezz'ora da casa. Vabbè, ho capito, rischia un po' e arriva a casa, scusami. E poi a proposito di Paco. Sì, ancora con sto Paco. C'ha la spada di fuoco, Paco. Sì, dice che c'ha la spada di fuoco, che ti devo dire? Dice, poi gli si sviluppa, invece che svilupparsi il cervello, quello lì si sviluppa qualcos'altro. Tu dici in generale i neri, dici? Questo non lo so adesso. A Paco specialmente. Scusami Silvano, ma tu l'hai mai comprato un vino? Ma questa mi pare una discussione poco interessante. Sarebbe più interessante sentire questo mio amico che cerca spiega... un lavoro, vai a cercare un lavoro. Le dimensioni del sindacalista di Paco è poco interessante. È più interessante chiama la tua sapere... amica sindacalista di trovarti un lavoro nel sindacato, così me lo ti metti anche tu a rubare soldi con loro. Però scusami, la deve smettere di dire insultare il signor Locascio. Il signor Locascio ha ragione. Dici che ha ragione Locascio? Sì, questo cazzo di Fazio. Chi è questo Fazio? Si può sapere. Vabbè, chi è uno che fa Fazio? Un lavoro alla RAI, viene pagato. E qualcuno dice: qualcuno... Viene strapagato. Ma torna anche in pubblicità da quello che dice lui. 2000 euro al mese, 2000. Vuoi lavorare alla RAI? Ti do 2000 euro al mese. Adesso questo mi sembra esagerato, amico mio. Sì, cioè... sì, 2000 euro al mese per quello che fa sono già troppi. Ma sai che io chiamerei Locascio a questo punto? Fermo un attimo, che adesso fra poco lo chiamo. Chiama Silvano, ti abbraccio. Hai mai Parenzo di smetterla di parlare male di Locascio. Locascio deve fare un partito. Scusami, noi lo appoggiamo. Silvano, spiegami una cosa. Hai mai provato a un vino tedesco da 50 euro? Se ho 50 euro non li spendo di certo per una bottiglia di vino, specialmente se è tedesco. A puttane ci vai con 50 euro? No, so che ci si va anche per molto meno, ma io sicuramente non li spendo per una bottiglia di vino. lui quell'eccaculo lì, che ha fatto? Quell'eccaculo lì che è a fianco, quel pigmeo, che ha fatto? Lui fa la pubblicità, intanto mangia e beve alla faccia nostra, hai capito? Ma non fa nessuna pubblicità, dai, non diciamo cazzate, dai. Fermo là, fermo là che devo chiamare Locascio. Fermi tutti, state attenti che chiamo Locascio, fermi. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Tu sei una pezza di merda, sei, guarda. Allora, precisato, caro Parenzo, che non vado al bagno da due giorni. Cioè, io non so se siano i postumi di questa intossicazione che ho avuto. Da due giorni che non cago, due giorni, è una cosa incredibile. Questo non credo. No, è vero, caro Antonio, è vero. Io ti posso dire questo, mi hanno appena detto che adesso apriranno ovviamente delle bottiglie di ottimo vino italiano. Ma questo in corner vi siete salvati. Fermo là, fermo, devo chiamare Locascio. Devo chiamare Locascio. Perché è un vino profumatissimo. Fammelo, se no ci scappa. Sì, perché pronto? Locascio, amico mio, sono Cruciani, come va? Oh, ciao Roby, bene, te come stai? Bene, non c'è male. Beh, amico mio, hai raggiunto il top, perché, eh? Ma perché lo chiami, amico mio, questo delinquente della scuola? Ciao, Parenzo, va, sta fatando il culo, va. Sei un delinquente della parola, perché hai detto adesso comincia con la pugnetta, perché Fazio viene pagato dagli sponsor e non viene pagato la Rai. Tutte ste cazzate, non mi cominciare a rompere i coglioni, perché le so, era sottointesa questa cosa, che io lo sapevo, però comunque devi sapere, caro Parenzo, che caro, comunque non caro, allora, cornuto, devi sapere, cornuto. Fammi parlare, rompere i coglioni, mi chiamato tu. Allora devi sapere che comunque tutti i libri che presenta Fazio, no, che comunque dopo vengono pagati gli sponsor, la Mondadori eccetera, le so tutte queste cose, non sono un coglione, però comunque sia il servizio pubblico non può permettere il servizio di Stato di far girare una massa così enorme di soldi intorno ad una persona quando ci sono le persone che stanno morendo sotto le macerie. Ma hai capito o no? Ma cosa dici, cretino? Aspetta, fermo un attimo, aspetta. Ma cosa c'entrano quelli sotto le macerie, cornuto demagogo? Ma che c'entra? Culo, non ci voglio parlare con i rotti coglioni. Aspetta, Locascio, senti la critica di Parenzo. Lui sta dicendo che quando io sto dicendo una cosa chiara, lui è un cornuto demagogo che messa del torbido, perché far passare il principio che siccome Fazio viene pagato quella cifra la gente viva sotto le macerie è una minchiata, e lui è un cornuto irresponsabile, e tu sei l'altro irresponsabile, tu sei l'altro Cruciani. Sei doppiamente responsabile, perché dipingi questo paese, lo mandi allo sfascio questo paese facendo... Ma lo mandi ma non di cazzate, ma vai a lavorare veramente, non rompe i coglioni pure tu, ascolta, dimmi Cruciani, no, io non sto ascoltando, ma lui mi offende e basta, che cazzo ascolto, uno che mi offende e basta lo manda a fanculo, no? No, allora, aspetta, al massimo il paese lo mandiamo allo Locascio, non allo sfascio, al massimo lo mandiamo allo Locascio, però io dico una cosa, caro Parenzo, Locascio dice una cosa a modo suo, molto semplice. E qui ci sono tante emergenze. La Maggioni che dice che la Rai crolla se non c'è Fazio, offende anche uno come Locascio, offende anche quelli che ancora aspettano la ricostruzione. E beh, io lo posso capire, Locascio, lo posso capire. Siete due criminali, voi siete due criminali. Ma ascoltate una rappresentazione grottesca. I soldi della Rai non hanno nulla a che vedere con la ricostruzione, con chi vive sotto. Dimostramelo, visto che ci hanno messo anche i pagamenti del canone nella bolletta della luce, dimostrami che la Rai come servizio di Stato non sta sciupando i soldi. Dimostramelo, cazzo! Ma lo devi dimostrare! No, dimmi, cornuto! Scemo, cornuto! Perché allora lo so far pure io! Io offendo la gente, so far meglio da te! Perché prima che tu esistessi, io già mi incazzavo nelle piazze! Però, non mi rompere i coglioni! Scusami, Locascio, lui ti ha detto cornuto, però ha detto demagogo e cornuto perché esalti le folle contro. Fai il demagogo contro Fazio e contro la Rai. Allora dobbiamo stare zitti. Questa larva nessuno. Umana, non lo conosce nessuno questa nessuno. Larva umana. Bravo, va bene, non sono nessuno. Allora, il signor nessuno, Antonio Locascio, la goccia nel mare, un demagogo del cazzo, sta dicendo, visto che sono un italiano, visto che i miei nonni hanno dato la vita per la mia patria Italia, sì, e sì, visto che io ho una figlia di 25 anni che per trovare un lavoro come insegnante di matematica è dovuta fuggire all'estero perché nessuno tutela i nostri giovani, i nostri figli, sì, perché vengono date pensioni d'oro a gente che non fa un cazzo. Io dico, visto che la RAI è un servizio di Stato, è un servizio pubblico, io voglio essere tutelato. Mi gira i coglioni sapere che un fazio, che la Presidente dice non possiamo fare a meno di lui. Ma come nella vita si può fare a meno di un coglione come Locascio, si può fare a meno di uno come Fazio che non sa né parlare né sta zitto con quella barbetta che rompe solo i coglioni, va bene? Lo posso dire, è una mia idea. Aspetta, Farenzo, rispondi, vai. Ma quale barbetta? Ma tu ti rendi conto? Cioè, questo pensa che i soldi della RAI, se non fossero investiti in RAI, andrebbero alla ricostruzione. È una cosa demagogica che hai detto, sbagliata. Sei un cornuto del pensiero, perché stai mestando nel torpido, alimentando i peggiori sentimenti popolari. Stai dicendo una minchiata, coi soldi della RAI non si fa la ricostruzione, irresponsabile! Mi dici perché la ricostruzione è ferma? Mi dici perché a 8 km da casa mia ci sono ancora le macerie? Locascio, scusa un attimo! Sei un irresponsabile, tu e anche Cruciani, tu è irresponsabile! Ma io che c'entro? Io che c'entro? Anche tu, io mando in onda le imprese, stai distruggendo le imprese e il paese in questo modo tu! Altro ma scusa, io do voce anche a Locascio, perché è la voce del popolo, una voce con conosciuta, popolare su internet. Sì, come si incazza lui? Non si incazza nessuno contro il potere, ma è normale che io do la parola a Locascio. A questo dai voce tu, a questo, solo a questo. Attaccato Locascione, attaccato il Locascione perché hai tirato il cesso, hai tirato il cesso. Beh, è stata un'espressione necessaria, diciamo. Marco da Macerata, vai Marco. Marco. Ciao Giuseppe. Dimmi, dimmi. Posso mandare a fare in culo il tuo vicino di posto che non so neanche se sta lì? Che sei amico di Locascio da Macerata. Non lo devi far parlare. Non lo devi far parlare. Ma che siete matti? Perché siete impazziti stasera. Siete impazziti. Senza sapere neanche quello che stanno passando quei poveri cristi, si mette a fare la chiacchiera sulla demagogia. Io ne voglio sentire più. Ma che perché c'entra? Ma lui ha detto un'altra cosa. Ha detto una puttana. Vi faccio un culo tutto il giorno. Vi ascolto perché mi diverto e vi sento dire cose sane di mente, cose puttanate di qua e di là. Però quando si gioca sulla gente che sta soffrendo. Ma che c'entra questo? Scusami. Mi girano i coglioni, capito? Aspetta, Marco, Marco. È l'unica persona. Che c'entra, Fazio col terremoto? Che c'entra Fazio col terremoto, non però? Non c'entra un cazzo. Non c'entra e allora questo, di questo si parlava. Ma sai cosa c'entra? Che quel popolo lì, io vengo da lì, lavoro al nord, vado sì, al sud. Allora? Però noi c'è una sfiga, che non c'è cacca mai nessuno. Non ci si tu dici grande attenzione della... grande certo, attenzione sugli nessuna, stipendi alla RAI, ma sono, ma sono due partite diverse, però sono due cose diverse, questo bisogna dirlo male. Questo meno un po' male. Bisogna dirlo. Poi uno ha diritto a incazzarsi perché il presidente della RAI dice che la RAI crolla, che è pubblica dei soldi nostri, se non c'è Fazio. Uno si deve incazzare secondo me in quel caso, però non c'entra nulla con la vicenda di con la vicenda del terremoto. Quella è un'invettiva, è un'invettiva di Locascio che io abbraccio fortissimo perché è bravo, ottimo, ottimo Locascio. Però Marco, torno con te tra poco. La Zanzara. Ma Facci è stato anche fin troppo buono. Cioè, che cazzo deve essere il Corano? Una roba scritta 2000 anni fa. Ma stiamo scherzando? Poi comunque, se gli va bene un mondo così, io sono pure un maschio. Che cazzo me ne frega a me? Se alle donne sta bene così, Andranno in giro come i Barba Papà. Andranno in giro come i Barba Papà. Facci la la la la la, facci la la la la la, facci la la la la la. Parenzo, ma le brocche di cristallo, le sottocoppe di feltro, ma ce l'hanno nei centri d'accoglienza? Allora ragazzi, un po' di voci da Napoli non mancano mai, caro Parenzo, ad arricchire questo programma, ad arricchire le vostre orecchie, certo, ad arricchire la musicalità, la sonorità dei dialetti italiani. Allora ti faccio sentire delle voci da Casoria, virgola, Italy, punto interrogativo Italy, però là si potrebbe discutere a lungo dell'Italia oppure no, però lasciamo perdere. Casoria, pare che arrivino una ventina, 20, 25 profughi a Casoria, la solita storia. Un paese dove stanno per arrivare, forse, come, quando, perché non si sa, dei profughi, degli immigrati, dei richiedenti felicità, come sostiene Parenzo. Senti gli abitanti. Questa è la situazione che sta accadendo nel Parco San Francesco stamattina. Già sono arrivati Matarassi, i Vogli Sabio, Sindaco Fuccio. Fuccio a Rossai, viene da fare un giro in da Parco San Francesco, Fuccio! Fuccio, da stai, Matarassi arrivano, i Matarassi! È stupendo. Chi si pensasse che il problema è solo lo Parco San Francesco, è di tutto caso, il mio prefetto ce l'ha messo in culo a nuovo, lo mette proprio a buio. Ce l'ha messa in culo a nuovo, ce l'ho, ve lo mette in culo pure a buio. È meraviglioso. Poi ti faccio ascoltare un'altra cosa e ti assicuro che devi essere veramente bravo se riesci a tradurre. Tu hai una certa... no, hai avuto un amante a Napoli per diverso tempo, mi raccontavi, no? Quando eri sposato, hai avuto... Tu mi hai raccontato che hai avuto un amante a Napoli per un sacco di tempo. Sì, quando eri sposato, mi hai raccontato... Sai, tanto ormai sei divorziato, che ti frega? Hai avuto un amante a Napoli... Sì, mi hai raccontato sempre, ho avuto un amante segreto a Napoli per un paio di anni, mi scopavo una a Napoli, ma l'hai sempre... Ma tu sei un criminale vero, ma che sei scemo? Ma me l'hai detto una volta, adesso rinneghi. Ma lasciamo perdere, abbiamo buttato. Per una vita hai avuto, ma hai detto un amante a Napoli. Ma sei scemo? Ma non c'è niente di strano. Ma non c'è niente di strano avere un amante a Napoli. Ma tu sei proprio. Ma sei stupido, patocco. Ma io non ho capito una cosa. Ormai che male c'è? Non ho capito. Avere avuto, hai avuto. Ma dica, è uno scherzo. Ma come, che male uno c'è? Ma me l'hai detto per due anni un amante a Napoli. Vabbè, ma comunque, per due anni. Vabbè. Ma sono mai stato a Napoli due volte. Ma vabbè, quello dici? Ufficialmente sei andato due volte. Di nascosto andavi a Napoli. Mi ricordo, io da Roma andavi a Napoli di notte. Stavi con una e tornavi in India. Ma non c'è niente di male. Ma sai che sei veramente una brutta persona, criminale, uno stupido. Fuccio a Rossai, viene da fanuccire in da Parco San Francesco, Fuccio! Ma che cazzo è? È il sindaco di Casoria. Ma lì che è uno scherzo, maledetto. Allora, tu non lo so, io me lo ricordo questa cosa qua, poi non sarà vera, ma mi stai pigliando in giro, però mi ricordo di questo amante a Napoli. Comunque, ma vediamo se riesci dalla tua frequentazione di Napoli a capire questi qua che sarebbero... Ma non l'ho mai frequentato. Vabbè, Napoli, ma adesso non c'è bisogno di... intanto abbiamo detto, sai come diceva Sant'Anna, intanto abbiamo lasciato, intanto abbiamo detto. Allora, intanto hai diffamato, però. Comunque, scusa, ragazzi, vero o no che sia questa sei cosa? Sei un cornuto, sei. Vero o no che sia questa cosa qua? Voglio capire se la tua frequentazione napoletana è... Ma non ho mai frequentato, sì, Napoli. Sì, vabbè, lascia. Con la tua frequentazione napoletana riesci a tradurre quello che dice questo qua, che è un becchino, cioè un dipendente di una società che si occupa delle bare, di mettere i cadaveri dentro le bare. Che è incazzato, non so, per le solite cose, perché non lo pagano. Ti pare normale che uno dipende dal comune più o meno e non viene pagato? Solo in Italia può accadere una cosa del genere. Dove... Sembra una follia, una follia. Vai, senti qua. Mamma sta tornando viva! Sono sei mesi a mo' padrone di casa, ma vedete, me lo cacciamo biechista, prima lo pavava! Terzo in Italia! È il cimitero più grande del terzo in Italia! E noi abbiamo vinto molto giorno, non è prima mettere la gente in due deposito. Ci ammanano un servizio a si famiglia. E se tu non mi risalto da me, io come metto molto latino? Più o meno l'ultima parte si è capita. Anche io che non ho avuto le frequentazioni napoletane di Parenzo, l'ho ma capita non questa parte. Ma non ho avuto nessuna frequentazione napoletana. Ma c'è un altro file di questo, un altro audio di questo genere, lo voglio risentire, questo è un genio. Cioè un becchino napoletano, io vorrei ogni giorno qui alla Zanzara un becchino napoletano, ti prego. mamma sta una tranna viva. Sono sei mesi a mo' padrone di casa, può vedere una cacciata biechistica, prima papava. Terzo in Italia, è il cimitero più grande del terzo in Italia. E noi abbiamo vinto molto giorno, là, nel primo metro la gente non deposito. Non si pensa a si famiglia. E se tu non mi resta da me, io come metto molto latino. Ah, ma dobbiamo dare un servizio a queste famiglie. Se non dai i soldi a me, come lo metto il morto là dentro? Da quello che ho capito, sono sei mesi che non vengo pagato e il proprietario mi vuole cacciare da casa la parte iniziale, no? Sì, adesso io non ho sentito, ma no, ti assicuro, ti giuro che non ho capito una parola. Una parola. Abbiamo 20 morti al giorno, uno dei cimiteri più grandi d'Italia, che è quel cimitero di Poggio Reale. Questo comunque è un genio, io lo voglio qui assolutamente. Allora, Luciana, provincia di Vicenza, poi Gianfranco da Roma, Eligio da Brescia, Fabrizio da Milano, Paolo da Messina, un sacco di gente, vai. Luciana, vai. Sono la Luciana, ciao. Luciana, numero uno, dimmi. Ascolta, io intanto non sono della provincia di Vicenza, sono in vacanza in una provincia Ma io che cazzo ne so, scusa, tu hai detto che chiamo dalla provincia di Vicenza, non lo posso sapere. Ecco, vabbè, io avevo chiamato perché di dove sei? No, io sono di Padova, vai in vacanza in provincia di Vicenza, scusa, non ho capito. No, io ho una casa sull'alto piano. Sull'alto piano, vabbè, d'accordo. Ad Asiago. Ad Asiago, bene. Allora, volevo dire che intanto sono d'accordo con quello che diceva Locascio, anche se le ha detto in maniera molto colorita. Qui c'è un grande sostegno nei confronti di Locascio, una grande, certamente, grande consenso. Certamente, no, ma da un punto di vista... Da un punto dico all'adorabile signora, io vengo molto spesso ad Asiago perché anch'io ho passato tutta la mia infanzia. No, è una casa vacanze. Lussuosa, dillo, è una casa lussuosa, no, ad Asiago. Normale, normalissima ad Asiago. Hai una casa lussuosa ad Asiago. No, ma normalissima. Hai una casa, oltre all'amante a Napoli, la casa lussuosa ad Asiago. Oh mamma mia, ma sei proprio un diffamatore di professione. Non ho avuto mai, te lo giuro, nessun amante a Napoli, ma nessuna proprio. Comunque, dico all'adorabile signora di Asiago... sono stato sull'Ortigara qualche anno fa. Vabbè, adesso dai, forza, non cercare di lisciartela. No, sull'Ortigara, meraviglioso, montagna stupenda. Solo per dire questo, io capisco l'indignazione popolare, però la RAI dice che il fazio viene ripagato direttamente dalla pubblicità. È una vecchia storia questa. No, ma non è una vecchia storia. La RAI deve scegliere e decidere. No, ma quello che ha fatto incazzare è la roba della Maggioni, che la RAI crolla senza fazio. Dai, è questo che ha fatto incazzare. Evidentemente, dal punto di vista dello puttanata, dai, è una puttanata. Se lui se ne fosse andato da un'altra parte, si sarebbe potuto consentire alla pubblicità. Io mi auguro ovviamente che vada male fazio, perché io sono in una squadra concorrente e quindi non mi posso che... David, ma che cos'è che salta la linea? Mi vuoi spiegare perché salta la linea? Cazzo. Non lo so perché salta. Allora, perché... sei al telefonino, cerca di parlare con la bocca attaccata. Semplicemente, io ovviamente non mi lavorando per una squadra opposta a quella della Rai, non mi posso che augurare che la cosa non abbia i risultati sperati. Ma adesso non è che devi portare sfiga a Fazio, no, scusa, che ti frega. Come dire Juve, ma è come dire Juve. Vabbè, come ma questo dire è ridicolo, Juve-Milan. Dai, su, ma è ridicolo, no, non ha senso, è come dai. Come dire Juve, io ho Parenzo, indosso... due punti, spero che Fazio vada male, ma non ha senso, dai, su. No, ma io indosso la maglia di una Ma non c'entra niente, dai, ma non c'entra nulla. No, ma che me ne frega? Ma che te ne frega se Fazio il sabato sera o la domenica sera sulla Rai fa i risultati? Ma che te ne frega a te? Io voglio fare le Che stai lì col corno, stai col corno perché vada male. Non sto col corno perché non porto mai il corno io, né in testa né né testa, non lo puoi tasca. Sapere testa non lo puoi sapere. Vabbè, anche questo vuoi insostenere? No, pure questo, no, ma non, quello che hai ma detto non lo puoi sapere stasera, questo però non lo pure puoi... questo mi auguro di no, diciamo, vabbè, ma Luciana non voleva dire se questo. Luciana, che cosa volevi dire? Non me ne frega nulla, mi lasciate parlare. Dimmi Luciana, dimmi. Ma è impossibile con quello lì. Ma lui si è montato la testa, credo, perché è andato alla 7 di avere... Ma c'era già la 7. Il monopolio. Ma sta attento a una cosa. Dimmi. Ascolta. Dimmi, chi è che sta parlando di tuo marito? Chi è? Sì, va bene, che dice tuo marito? Che è dice? Mio marito. È ubriaco. Mio marito ha detto che a Padova si dice che merda che monta in scagno, che fa spulso, che fa danno. Cioè, comunque, che vuol dire? Che vuol dire? Vuol dire merda che monta sul piedistallo, o fa puzza o fa danno. Senti, vabbè, comunque volevo dire questo. Sono d'accordo con Locascio, sono d'accordo. E dopo io avevo chiamato per dire questo. Dimmi. Che da quando Parenzo è la mattina e fa l'aria che tira... Non lo farà più, perché la settimana prossima fa la sera. Ah, meno male. E siamo, guarda, tutti, siamo tutti dalla parte di Telese e Parenzo, che devono rompere il culo alla concorrenza da lunedì sera sulla 7. Questa stamattina a lui ha invitato Monsignor Galantino, se non mi ricordo come Galantino, si chiama. Sì, allora? Ecco, e dopo c'era in collegamento la Comi, la Lara Comi, democristiana. Ma non è democristiana, è di Forza Italia. No, è di Forza Italia. Ma quella c'ha 30 anni, ma che è democristiana? Ma quando mai? Allora, dunque, hanno detto, lei ha detto che Forza Italia considera la posizione di Minniti, che ha detto blocchiamo i porti qua e là, Forza Italia la considera una dichiarazione un po' azzardata e di provocazione. Allora io mando un appello, io dico che Salvini deve mollare Berlusconi perché non se ne va. Vabbè, ma scusi, deve, perché adesso lei è passata da Locascio a Salvini? Ma che vuol dire? Perché io sono così, sono che vado da un discorso all'altro, perché voglio dirle tutte. Allora, io ma dico lei che questo. Pensa dei Rom? Io penso dei Rom, tutto il male possibile, perché sono stata derubata da loro. E dunque che pensa dei campi Rom? Dei Rom? Dei campi Rom, ma le ragazzine a 13 anni si infilano i cacciaviti e i cosi su per la vagina, ma stiamo scherzando? Beh, ma stiamo scherzando? Su per la vagina. Questo non l'ho capita. Ma andiamo. Sì, coperti con un telo di nylon, con un pezzo di nylon, se li ficcano, no, perché scusi. Così la polizia non li trova, hai capito? Io dunque, non che fare? Che fare con i Rom? Che fa? La domanda è che fare? Che fare? Ma fai rimandarli tutti al loro paese e basta. E gli immigrati? Gli immigrati, gli immigrati non ne parliamo, perché a Padova siamo sommersi, non ne possiamo più. Ma quelli che arrivano qui in Italia, che fare con i barconi che arrivano, la gente che arriva? I barconi che arrivano bisogna rimandarli, chiudere i porti, come chiudere fanno porti. Gli altri paesi. Come vuole fare la sinistra adesso in Italia? Come vorrebbe fare la sinistra adesso in Italia? Ma cosa vuoi che facciano? Dicono, non fanno niente, ma va là, ma non li conosce. Bene, Luciana, vai all'attacco di Parenzo, attacco definitivo a Parenzo, all'attacco di Parenzo, che Parenzo la deve smettere, perché lui da quando è arrivato a fare la mattina lì la trasmissione non piace più a nessuno. Ma chi te l'ha detto? È andato bene? Chi te l'ha detto? Al contrario, sei impazzita. Ma va là, ma chi è che lo ascolta? Quattro pensionati che lo ascoltano. Lei che è una pensionata. Lei, tu Luciana l'ascolti, tu l'ascolti. Io ho la televisione in tutte le tu stanze. Tu accendi della lì casa, e contribuisci, capito? Al successo di Parenzo, tu Luciana, tu. Tu, sì, tu, passami tuo marito. Bisogna sapere, sì, ti passo Alberto, ciao. Passami Alberto. Alberto, ma Luciana ecco com'è? Alberto. Com'è Luciana? Ciao, Parenzo. Che dice ciao, Luciana? Parenzo. Luciana è una di cuore, è una forte Luciana, com'è? È una donna con i controcoglioni, no? O no? Ma tanto anche con i contro. Però ogni tanto qualche cornino gliel'hai messo, qualche cornino, no? Amico può mio. Essere, può essere, no, può essere. Può essere un cornino. Può anche essere. Ma, allora io sono quello, se ti ricordi, che vado via col fucile e vado via con un bastone di legno, con la testa famiglia. Di ferro, per spaccare la testa a quelli come Parenzo. A Parenzo gli avevo già promesso che quando lo trovavo a Padova in ghetto e lui sa, gli avrei fatto un culo grande come una rosa. Ma come mai? Perché è un testa di cazzo, Parenzo. Non è un testa di cazzo, è 10 teste di cazzo. E se c'era Alberto? Non sa neanche quello che dice. Scusa, ma quel bastone nodoso è proprio stupido, capite? Quel bastone nodoso scusi, col ferro sopra. Ascolta, ma serve anche per gli immigrati? Serve anche per i Rom? Sì, all'occorrenza, certo, all'occorrenza. Certo, all'occorrenza. Non è un bastone, sai? Che cos'è? Mai detto un bastone? Sì, è un bastone da golf, ti dissi un bel giorno che ci siamo già parlati, da golf, con la testa di acciaio, da dargli sui coglioni a Parenzo. Fa molto male però di acciaio, la testa di acciaio. Volevo capire soltanto questo. Lei non è cresciuto alla scuola di Einaudi, vero? La faccia, capisci? Ti spacco la faccia, Parenzo, stai zitto, perché con me non ce la fai, sei uno stupido. Ma perché? Volevo capire questo, ma tu non sei una testa di cazzo, tu sei uno stupido. Scusami. Volevo capire soltanto questo, ma questa sua aggressività perché l'ha sviluppata? Non parlare con me, non ti voglio vedere. Non ti voglio vedere, non d'accordo, ti voglio neanche sentire. Quadro di famiglia. Mi fai schifo. Ok, va bene. Quadro di famiglia da Padova, trasferito temporaneamente ad Asiago. Grazie. Amici miei carissimi, siete in ascolto. La pubblicità. La pubblicità. Puccio! Puccio! OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta La Zanzara. Poca figa massaggio. Allora, urge un commento di Parenzo su una notizia importante del giorno, non quella che Mattarella ha detto che ci sarà un probabile voto entro l'inizio della primavera, in un'intervista a Bloomberg, notizia di pochi istanti fa, che non ce ne frega nulla di quando ci saranno le elezioni, ma su quella del bengalese che è stato aggredito a calci e pugni da quattro ragazzi perché gli è stata assegnata una casa popolare a Roma nel quartiere Torbella Monaca. Beh, è una storia inquietante questa, eh? Quest'uomo ha una cittadinanza che è italiana, la polizia sta indagando naturalmente, però ragazzi, va bene, le case popolari spesso sono assegnate in maniera assurda e probabilmente vengono favoriti anche gli extracomunitari in alcuni casi perché hanno il reddito più basso, ma non c'entra assolutamente niente. Ma cosa dici? Ma no, cosa ma in questo caso non c'entra nulla, perché questo qua si è presentato dopo un'assegnazione regolare nel quartiere Torbella Monaca, un signore che peraltro è italiano di origine bengalese ha chiesto informazioni sotto lì, sotto il palazzo, a quattro ragazzi che gli hanno detto tu non hai nulla a che fare con le case popolari, l'hanno picchiato. Questa è una porcheria, una cosa indegna che non c'entra assolutamente nulla con una discussione che uno può fare naturalmente sul modo in cui vengono assegnate le case popolari. Commento di Parenzo? Il commento di Parenzo è che è un episodio vergognoso, ed è per fortuna per una volta hai detto una cosa saggia anche tu. Vabbè, che devo dire, scusa? No, hai detto una cosa saggia, cioè un episodio vergognoso, quello aveva diritto, aveva diritto alla casa, e un episodio, è razzismo, come lo devi chiamare? Ma razzismo, quello è un coglione, sono quattro coglioni che girano, razzismo, no, è una cosa tu diversa. Tu hai ricordato giustamente la frase che questi qua avrebbero detto, tu non hai diritto perché tu non sei italiano. Allora, siccome è passata questo, invece non è italiano, evidentemente è italiano perché è cittadino italiano e ne ha diritto, perché come tu ben sai non è che l'immigrato che arriva gli danno la casa popolare, è una stupidaggine. Lui è un italiano, è un immigrato italiano, nella graduatoria si vede per una serie di criteri che sono i figli. Sì, sì, vabbè, vabbè. No, vabbè, questo è il punto invece, si tratta di... Io non mi tolgo dalla testa quello che è successo al Policlinico di Napoli, dove dei bambini del reparto oncologia ordinano dei panini, il fast food ha offerto la cena. Una cosa normale, una notizia che si può classificare a molte visualizzazioni sulle pagine dei giornali online, eccetera. È una bella storia. È una bella storia. Ma vogliamo ripetere quello che ha detto la signora Martani, la nazi vegana Daniela Martani a questo proposito? Perché l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione o qualche minuto fa, ma lo voglio ripetere perché è veramente incredibile. Cioè io non riesco a capire come si possa arrivare a questi livelli. Allora ripeto, una notizia molto semplice è questa: Policlinico di Napoli, bimbi del reparto oncologia ordinano panini, il fast food offre la cena. Naturalmente all'interno delle buste che sono arrivate c'erano degli hamburger e delle patatine fritte. Scrive la Martani, e si dovrebbe vergognare per quello che ha scritto: danno da mangiare a bambini malati di cancro hamburger e patatine fritte? Sono da arresto. Ora, come vuoi commentare una cosa di questo tipo? Come vuoi commentare? Va aiutata. Gianfranco da Roma. Anzi, che c'era prima? Gianfranco, vai. Dimmi Gianfranco. In realtà Franco, ma volevo intervenire per un argomento che ne parlavi qualche minuto fa, sì, relativo alla raccolta firme per quanto riguarda la punizione dei clienti delle prostitute. Sì, la raccolta di firme è promossa incredibilmente da una sindacalista, dal capo di uno dei sindacati. Beh, gente che va con l'appoggio di Parenzo. Ma gente che va in crociera, magari dicendo che voglio fare i congressi, ma vabbè, lasciamo stare questo. Bravo a ricordare questo episodio. Bravo. No, mi volevo rivolgere proprio a Parenzo. Non so se lui qualche volta si è posto il problema, che ogni volta lo sento molto forte contro le prostitute e soprattutto i clienti delle prostitute. Allora? Penso agli uomini soli che poveretti non riescono a rapportarsi con donne per problemi propri, bruttezza, timidezza e cose del genere, sulla funzione sociale che queste donne hanno nei confronti. Una grande funzione sociale. Una grande funzione sociale. Ma bisognerebbe fare una raccolta firme, secondo me, per farle passare dalla mutua. Bravo Gianfranco, adesso forse è un po' esagerato. Ci sono i massaggi, fisioterapia, facciamo pure quei massaggi. Poi non so se è vero, hai detto una cazzata, se è divorziato o meno, Ma lui se fa solo le seghe o c'è una donna, che non ho capito. Non ho capito, ma scusa, sì. Va solo? Non so se è una stronzata che hai detto tu, sei divorziato o meno, non c'ho idea. Ma se fosse veramente solo Parenzo, ma lui che se fa? Solo le seghe, cioè, ma no, ma c'è una compagna, che c'entra adesso? Non è che uno se... Voglio dire, ecco, e nel voglio caso dirle, adesso... Ma tu vai a puttane, dire... Gianfranco, tu vai a puttane? Guarda, io in realtà ne ho una fissa. Di che? Di puttana? Poi a me non mi piace chiamarla così, quello è un tesoro incredibile. Che cioè hai una prostituta, hai una prostituta fissa? Ma non mi piace di sta parola, diciamo ho una operatrice del sesso che mi aiuta nei momenti difficili. Lei è una persona che da quando è nato ha momenti difficili, questo è il punto. Cioè, lei non sa che cos'è il corteggiamento, cos'è l'amore, e preferisce spendere i suoi soldi in prostitute. Hai ragione, però ti sbagli enormemente, io addirittura le corteggio perché altrimenti non provo nessun tipo di piacere, peraltro. Poi un'altra cosa importante, io però ho scusa, chiamato molto... qui, aspetta, qui è fondamentale. Tu hai una fissa, hai praticamente una amante, una fidanzata prostituta? No. Beh, hai detto una fissa. Una fissa nel senso che non mi rivolgo a tutte, ma... Cioè vai da una... paghi una che è sempre la stessa. Esatto, perché oltre ecco, per curiosità, ma di che nazionalità oltre è? Oltre accesso d'amore, che amore non è, come diceva Battisti, comunque ti dà un momento di... rilassatezza, di gaiezza nei momenti difficili. Sì, però questa non ho capito bene. Parenzo, come giudichi la vita sentimentale, no, erotica? Non mi permetto di giudicare la vita di questo miserabile. Dico semplicemente che il fatto stesso che lui ammetta di pagare per avere prestazioni sessuali a me fa orrore, ma voglio dire... No, ma aspetta, qui c'è un passo in più. Non è solamente il fatto di avere una di andare a prostitute, di andare a mignotte, cosa che tu ritieni abominevole, ma che è assolutamente normale. Gianfranco, sta dicendo... Abominevole che uno si paghi una donna, vabbè, per avere le sue... Vabbè, ma questo lo sappiamo, la tua posizione è nota da questo punto di vista. Gianfranco sostiene un'altra cosa, che ha praticamente... No, perché poi, scusa un attimo, diciamola tutta, è venerdì, sono le 8:30. Questi stronzi che poi chiamano e si arrabbiano perché il mio amico apre una bottiglia da 50 euro di vino tedesco, sì. Sono gli stessi che vanno a fare massaggio lì, come si dice, massaggio romantico, no? Vabbè, allora... Sono gli stessi, ecco, quindi quelli spendono 50 euro per farsi massaggiare, diciamo così, il loro organo che gli provoca piacere, e invece e poi si arrabbiano con me perché il mio amico apre una bottiglia di vino tedesco, cioè capisci la contraddizione in te. Io non sfrutto nessuno, loro sfruttano una donna. Gianfranco, io non ho capito una cosa, di che nazionalità è questa tua fidanzata? Questa ragazza è romena, moldava. È romena, moldava, tu praticamente... Allora sposala, invitala a cena, portala a... Ma che gliene frega di andare a cena questa, dai. No, fermo, no, Cruciani, fermo, no, è una stronzata quella. Cioè in realtà, spesso la porto con me, che è una gran bel pezzo di gnocca, e spesso amici, mica la presento come quella, sbavano come dannati, nel senso che vorrebbero farci roba, chiaramente non è possibile perché... sta con me, la porta a cena. Ma non è che sta con te. Sta con te, ma non sta con me in compagnia in quel momento. Sta con te perché tu la paghi, perché tu sei chiaramente un cesso. Sei chiaramente una persona inutile. Ma c'ho un discreto successo con le donne, però ma quale molto successo? Spesso. Ma neanche sì, su porn tu. Ma non c'ho bisogno, Ma scusa, perché frequenti questa? Perché frequenti questa? Spiegami. Ma mi colpì un giorno per la sua grande signorilità, per il suo grande modo di essere, come ti posso dire, degna come persona. Cioè non hai solo questa, diciamo, frequenti come prostituta, sì, ma hai una fidanzata, una vita, un'altra vita oppure no? Oppure frequenti... Allora, io per una vita, per una lunga vita sono stato un monogamo. Adesso quelle che prendo le timbro tutte. Vecchie e giovane, magre e ciccione, ma soprattutto perché so ogni donna è degna di essere amata, e perché dare un dispiacere a qualcuna di no, di sì. Parenzo, è una filosofia questa qua, è una filosofia. Non è una filosofia, questo qui è un signore semplicemente che non è in grado di corteggiare, di farsi amare senza pagare, molto semplice. Ascolta Parenzo, non mi togliere delle provocazioni. Io ti potrei dire... Scusa, che io non ho capito, oltre a questa prostituta... Se conoscessi la tua compagna, io penso che un po' di tempo me la porterei a letto. Ma no, non credo sono proprio. Sicuro. No, ma te questo... lo dico io, ma stai tranquillo. Questo mi pare difficile. Vabbè Gianfranco, molto difficile. Ti saluto, ti abbraccio. Ciao, ciao. Il gusto dell'orrido nessuno a casa mia ce l'ha. che ci fa un pompelmo d'era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trans, David sta andando a trans, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trans, David sta andando a trans, David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con F e Ball. Ah, e vabbè, vanno a trans, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io... Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Fuccio Arostai, viene da fanuccini da Marco San Francesco, Fuccio! Io vai sta male, sento dalla voce che sta male. Cruciani, che delusione ieri col racconto della moglie del Gran Commis. Eppure è ripartito bene, casa decadente da 500 metri quadri, pasto frugale, stanza del nonno, e a quel punto scatta la delusione, perché io mi aspettavo che tu te la chiavavi sul letto con il nonno rincoglionito attaccato alla flebo come in un film di Salieri, e invece no, chiavatina normale sul letto col nonno assente. Ma più che il racconto di un grande scopatore, mi sembra un sabato ordinario a casa Parenzo. Che vergogna, Cruciani. Mi piace che Parenzo, uomo di estrema sinistra, parla della Filippina come di una cosa di sua proprietà. La mia Filippina, la piglia per il culo. Tu devi lavorare, cosa stai a fare i messaggini? La mia Filippina, la mia Filippina. Ma vaffanculo, Parenzo. Ma vai a cagare, non c'è tu un cazzo di niente tu. Scusate, io ho raccontato quell'episodio che riguarda casa mia, con quella signora che veniva, moglie di un gran commis di Stato. Ma io non capisco, ma perché non se la prendono con te per i tuoi 500 metri quadri di casa sopra l'ambasciata spagnola? No, non c'entra niente l'ambasciata spagnola, no, stai sbagliando tutto. Però non tu c'è... sei anche proprietario del palazzo. Non dove sono proprietario per niente, assolutamente no. Mia madre ha una piccola parte in quel palazzo, mia madre. Ah, mia una madre. Piccola parte nel palazzo dove ha la residenza l'ambasciatore. Ma non c'è nessun ambasciatore, stai dicendo delle stronzate pazzesche. In uno degli stabili più prestigiosi di Roma, comunque. E poi se la prendono con me perché un mio amico apre una bottiglia di 50 euro di un vino tedesco. Andate tutti quanti a fare il culo, voglio dire. Dopodiché racconti l'episodio di quando tu, giovane ragazzo, vivi in un palazzo di 500 metri quadri, e continuano a prendersela con me perché ho aperto, ospite di questo amico, una miserrima bottiglia di champagne. Andate ancora una volta a fare il culo, cioè, capisci che non c'è proporzione. Sei anche un ebreo. Vabbè, questo di per sé non c'entra. Allora ragazzi, la questione è molto seria, caro Parenzo. So che in Parlamento vogliono di nuovo proporre una legge, l'avevano già proposta, per eliminare i siti che vendono i cimeli fascisti e nazisti. Oh. Sempre il tuo amico Fiano. Cioè vogliono proibire la vendita su internet dei cimeli che, della Seconda Guerra Mondiale, eccetera. Beh, io su questo ho una posizione diversa, però... Oh, meno male. Persino degli esponenti della comunità ebraica dicono che è una cosa di storia, che non ha nulla a che vedere con la rivendicazione del fascismo e del nazismo, anche se molte di queste persone chiaramente sono di quella parte lì. Ma non c'entra nulla, ragazzi. Libertà di vendere qualsiasi cosa, anche i cimeli nazisti. C'è un nostro amico che vende le divise naziste, le va a comprare in Germania, lo conosci anche tu. Di che parliamo? Dai, su. Un conto è il mercato dei cosiddetti fanatici che comprano queste cose. E allora queste perché non li possono comprare, scusa, no? No, per fare poi delle rievocazioni storiche nazistoidi, lì andrebbe mandata semplicemente la polizia a arrestare. Ma quando mai? Un conto è chi invece fa il collezionista e quindi compra questi cimeli, per me orribili, e quindi per me segnano un lutto quei cimeli. Vabbè, però andiamo a Cosenza. Non lo proibirei. Ecco, appunto, meno male. Andiamo a Cosenza da Francesco, vai. Pronto? Dimmi, dimmi. Io, perché voi dite tutte queste parole brutte? Voi lavorate per il demonio. No, aspetta, scusa, siamo calmi. Questo stiamo calmi qua. È un altro tema. Allora, scusami Francesco, non ho capito questa cosa qui. Cioè, tu perché dici che dicendo noi ogni tanto delle parole brutte, che in realtà sono delle parole correnti, di uso comune, siamo praticamente conquistati dal demonio, o no? Voi non so se siete conquistati, però non parlate mai di amore, mai di pace. Beh, io ci provo. Voi lavorate per i sauromati. Per chi lavoriamo, scusi? Per i sauromati? No, Davide, metti bene il telefono, ti prego. Io non so. Voglio dire, noi lavoriamo per la Confindustria e io anche per la Sette, ma non per questi sauromati. Chi sono questi sauromati, scusami? I sauromati, non sapete, no, voi non dite il vero, voi non dite, voi mentite. In che senso? Chi sarebbero i sauromati? I sauromati, no, se io pagano possiamo anche lavorare per i sauromati. Ma chi sarebbero i sauromati? Adesso devo fare una ricerca immediata. Chi sarebbero i sauromati? Io non posso parlare con voi, scusatemi, ma voi lavorate per il demonio, per i sauromati, scusatemi. No, però scusami Francesco, scusami. Il demonio paga, i sauromati pagano? Chi sarebbero i sauromati? Io sono stato in attesa a sentire pure quello che avete detto. Mi avete costretto a sentire delle cose. Io non posso parlare con voi, scusatemi, io devo chiudere. No, però scusami Francesco, scusate, non ho capito bene. Chi sarebbero i sauromati? Io non voglio parlare di questa cosa. Ma scusami. No, Francesco, no. Scusa, io ti capisco, ti capisco. Se vuoi per un attimo posso parlare di amore, posso fare una preghiera, eccetera, posso anche essere partecipe del tuo stato d'animo. Però voglio capire, veramente sono curioso di sapere chi sarebbero questi sauromati, perché io qua vedo esistono solo i sarmati, non i sauromati. I sarmati hanno cambiato il nome, la storia ha cambiato. Ma chi sarebbero i sauromati? Sono quelli che voi lavorate, lo sa lei chi sono, è inutile che mi dice. Non lo so chi sono i sauromati. No, mi dovete scusare, io non riesco a parlare con voi. Ma il popolo lucertola, chi è? Ma questo adesso lo richiamiamo tra poco. Questa è una meraviglia. questo è incredibile. No, ma io voglio capire solo questo, questi sauromati. Se pagano possiamo anche ragionare. Sì, ma no, ma questi sauromati dice che lavoriamo per i sauromati. Sì, dipende. Se ma pare che, pare che siano il popolo lucertola, però è difficile che paghi. Ma io non so chi siano, io mi chiedo solo: ci fanno fare la zanzara i sauromati? Pagano al 27 del mese bene? Andiamo dai sauromati. Io non vedo problemi su questo. Voglio capire chi sono. L'editore il popolo lucertola. Il popolo lucertola. Chi è? Und Autobahn alleine in das Ausland fahren Reise fahren nur Spaß mich nicht verlieben just a little non risponde questo dei popoli lucertola qua. Com'è che si chiamava? Paolo da Cosenza, come si chiama? Francesco, come si chiama? So what's a problem? Allora, caro Parenzo, voglio iniziare da stasera una rubrica, come diresti tu, sì. Una serie di incontri, non sono incontri al Cenacolo, caro David, però sono incontri importanti perché rappresentano una parte importante dell'economia italiana, persone che cercano di lavorare al massimo delle loro, perché magari hanno delle difficoltà economiche, perché pensano di arricchirsi, non lo so. Voglio chiamare questa serie di interviste Italian Gigolo. E partirei con Noah Fioravanti, così si fa chiamare, non so se si chiama sul serio così. Fermo con quel telefono. Io conoscevo Giusta Fioravanti. No, Noah Fioravante o Fioravanti. Ciao, buonasera, ciao. Sì, ciao Cruciani, ciao a tutti, buonasera. Quanti anni hai, Noah? Quanti anni hai? 34 anni. Allora, ma scusami, qui mi ha scritto qualcuno, siccome hanno detto ti chiami Noah, dal film Gigolò per caso di Woody Allen, hai preso lo spunto? Esatto, non è il mio nome reale, è un nome d'arte. Capisco, esatto. Naturalmente. Esatto. Cioè, come ti presenti alle tue clienti o ai tuoi clienti? Tu vai con le donne o con gli uomini innanzitutto? No, io vado solo con le donne, esclusivamente con gli uomini, con le donne. Sono un etero convinto. Da quant'è che fai Gigolò? Guarda, è una storia cominciata circa 7 anni fa, un po' per caso e frammentata poi negli anni. In realtà non è stata, non ha avuto, diciamo, un seguito, una costanza negli anni. Per cui è iniziato da 7 anni, più o meno. Più o meno, ma, sì, ma dov'è, sì, che operi? Su internet? Metti un annuncio e tutto? Sì, alla fine sì, su internet. Non sono quello che vuole fare 300 incontri al mese, per intenderci, ne faccio 4, dai 4 ai 6 incontri al mese. E beh, 4-6 è pochino, cioè è per integrare allora. Sì, nel mio caso sì, è solo un'integrazione, e poi comunque fatto proprio da un'idea di passione, per cui... Cioè, sei la cosa è nata dal sesso e poi, cioè, hai bisogno di questi soldi che guadagni o no? In realtà sì, nel senso che io mi sono trovato appunto 7 anni fa da solo a essere un genitore con una marea di spese impreviste e poi comunque costanti, tra l'altro, anche negli anni, spesso, senza stare qua, sì, a sottolineare. Cioè, ti sei separato, come. Sei stato mollato, che è successo? Esatto, sì, esatto. Nel mio caso sono stato appunto mollato dalla mia ex moglie, che aveva al tempo un altro compagno già da mesi, e mi ha mollato con nostra figlia, per cui mi sono trovato da solo dove lavoravo. Ma la figlia ce l'hai tu o no? Sì, esatto, è in affidamento a me, lei la vede solo 2 giorni a settimana, però nonostante questo pago io gli alimenti, per cui cioè, sono un po' quelle cose all'italiana che... Cioè paghi gli alimenti a lei, diciamo, a tua, esatto, moglie, cioè paghi, sì, gli alimenti. Esatto, scusa, non ho capito, esatto, ma quanto ti porta il lavoro di gigolò? Quanto prendi ad appuntamento? Guarda, dipende, se è una cosa... Possiamo parlare proprio terra a terra in trasmissione? Sì, ma certo. Okay, va bene. Allora, diciamo che per una sveltina, tra virgolette, che può essere l'incontro post-cena, piuttosto che di qualche ora, sono circa 200 euro. Poi è chiaro che sono elastico e posso fare dalla cena più dopo cena, più weekend, più anche... Però minimo 200, diciamo. Dai 200 fino a... Per cui al mese quanto fai, più o meno, in media? Ma sono sui 1.600-2.000 euro circa. Potrei anche fare molto di più, ma non mi interessa. Beh, tutto in nero, diciamo, dai 1.600-2.000 tutto in nero, ovviamente. Esatto. Beh, amico mio, non è poco, Parenzo, no? Cioè... Beh, dipende sempre a cosa lo rapporti, il poco e il molto, eh? No, mi beh, certo. Qui mi pare che ci sia, come dire, la volontà di farlo, non c'è sfruttamento e quindi... Vabbè, sì, cosa no, ma tu come giudichi il lavoro di questo signore? Perché sono sicuro che tu sei severo, cioè vende il suo corpo anche lui. Perché non sei severo come fai? Perché mi pare perché non è solo il corpo, attenzione. Che senso? Mi pare che senso? Lui ci sia una scelta consapevole e anche, come dire, consapevole, quindi va bene, non c'è sfruttamento, non c'è magnaccia, non c'è repressione, non c'è violenza. Perché dici, quindi... perché dici che non c'è solo il corpo? Scusami, Noah. Ma perché semplicemente per il fatto che la gente deve imparare un po' a capire anche questa cosa. Lo gigolò, adesso per antonomasia intendo, poi chiaramente siamo in tanti e ogni testa è diversa. Lo gigolò è una sorta di mestiere, se così vogliamo chiamarlo, molto differente da quello che può essere la escort al femminile. Perché? Dove comunque... perché? Ma perché non siamo gli esseri umani a casa a gambe larghe che attendono la cliente, e punto e basta. Cioè, proprio una sorta di rapporto che si crea. Cioè, a differenza, tu dici, della puttana. Esatto. Il tuo mestiere è sempre una questione, secondo me, di domanda e offerta. Scusami, Cruciani, se ti interrompo. È sempre una questione di domanda e offerta. Noi dobbiamo metterci in testa, una volta per tutte, secondo me, poi questo, ripeto, non è la verità, ma a mio parere, che se c'è un'offerta, dall'altra parte c'è una domanda. Capito, Parenzo? Quindi questo è un dato di fatto. Per carità, ma nel caso di questo simpatico signore... perché ti vuoi distinguere dalla puttana? Perché pensi di avere un rapporto diverso con le donne che frequenti, con le donne che vengono da te, un rapporto anche... Per due motivi. Uno è quello che hai appena detto tu, l'altro è proprio la tipologia di richiesta da parte delle donne. Le donne non cercano quello che cerca l'uomo. Per la maggior parte degli uomini è vero il fatto che basta il buco all'interno di quelle due belle cosce e va bene così. In invece realtà, le tue donna, clienti? No, assolutamente. Diciamo che c'è un buon 60-70% anche delle mie clientela, tra virgolette, abitue, che sì, assolutamente va a cercare quel momento di stacco dove può essere anche appagata sotto mille altri aspetti, anche sotto l'aspetto carnale, perché poi ricordiamoci che la maggior parte comunque sono donne sposate. La donna sposata cosa va a cercare? Come quella anche comunque impegnata. Il più delle volte, questo ripeto la mia esperienza, quello che non fa con il marito o con, comunque con il compagno. Ok, però è sesso. Sì, però a certi livelli, nel senso che, non so, la donna che vuole finalmente sentirsi troia, passiamoci il termine, certo, fino in fondo, nel senso che dice, magari si vergogna di proporre certe cose al compagno, al marito, cioè, che sesso anale, cose di questo tipo. Ma non solo, ma anche tipo? Giochi, che cosa? Ma io ti dico, nella mia piccola parla, carriera... Parla tranquillamente. Quali sono le cose più perverse che ti hanno chiesto? Ma allora, una volta eravamo a letto, mi hanno chiesto di essere legate col guinzaglio e portate in giro per la casa o in giardino, sculacciate, poi magari prese con la testa di forza, messe... Cioè, dipende, ci sono... Prese con la testa di forza e messe? E messe sul mio cellone, nel senso che... Ah, sì, vabbè, vabbè. Scusi, però, professore, mi scusi. No, no, mi professore, scusi, non sono un professore. No, questa ma adesso, per carità di Dio, far passare come che la donna normalmente, perché lei... Ma non ha detto normalmente, ha detto ci sono delle persone che vengono da lui che chiedono delle cose che il marito o il compagno non gli dà, punto e basta. Ho capito, ma amico mio, ma ti pare che uno prende la moglie e le mette il guinzaglio e la porta... Perché? E la... Perché? Non ho capito. Che c'è di male? In una coppia tu non lo farai. C'è un sacco di gente che per rinnovare il matrimonio, per renderlo più frizzante dopo tanti anni in cui magari non si scopa, ha voglia di che il marito prenda, gli la metta col guinzaglio e dice: ma boh, schiaffi sul culo, boom, boom, boom. Ma quale guinzaglio? Ma cosa dici? Ma scusa, la nerche. Scusami, amico mio, tu sei con la dotazione Cruciani. La dotazione com'è la tua dotazione? Ma adesso sono sui 21-22 centimetri, non lo so, centimetro più, centimetro meno. 21, ma non 22. È tanto. Beh, anche, che quello conta. Anche quello conta, però. Vabbè, chiaro, se siamo dei mini dotati, è chiaro che... Non fai gigolò. No. Ma no. Tua figlia non sa nulla di queste cose? Ma no, assolutamente, nel senso che per me questa è una cosa che corre parallela a quello che è la mia vita comunque. E il tuo padre, lavoro principale è principale qual è? Cosa. Il tuo lavoro io sono un agente di commercio nel settore... Mio padre ha fatto l'agente di commercio per una vita. Esatto. Ma non solo, però non credo che abbia fatto anche gigolo, non credo. Mai dire mai, Cruciani, mai dire mai. No, ma infatti no, io per carità, assolutamente. Che dicevi del tuo lavoro, scusa? No, nel senso che io poi chiaramente oltre al mio lavoro sto seguendo da qualche anno anche una startup legata appunto alle nuove tecnologie che comunque... Cioè, cerchi di... per quanto tempo lo farai? Ma non è una cosa indefinita, nel senso che non mi sono dato una scadenza, ma sicuramente non è una cosa che porterò avanti tanto, ripeto, è un'integrazione... Ma ti piacerebbe fatturare oppure è meglio che sia tutto in nero? Ma magari si potesse fatturare, te pensa solo che i codici anche per le partite IVA in realtà esistono per evitare la rottura di coglioni, passami il termine, dello studio di settore, ok, giusto per dirne una. Ci sono vari codici dove per esempio io sono a vendita di prodotto / servizio senza prevalenza di alcuno, quindi potrei sicuramente anche fatturare. Insomma, non lo so. Sì, senti altri giochini che ti hanno chiesto? Altri giorgini che altri giochi strani. Cioè, per dirti, darti l'idea, c'era una donna una volta che mi ha fatto, mi ha presentato questa fantasia di farlo sul cofano della macchina in mezzo alla strada. Oh, ti giuro, l'abbiamo fatto alle 10 di sera. Vabbè, questo non è troppo complicato. Senti, no, l'età delle persone, vai anche con persone di 60-70 anni? No, dai 30, dai 28-30 ai 50. Ecco, perché sei così razzista? No? Se uno di 60 anni, cioè, un razzismo pazzesco. Purtroppo sono un razzista di merda. Sei un razzista pazzesco. Senti, ma posso dare la tua mail che mi hai lasciato? Assolutamente. Ragazze, donne italiane, erotico italiano 2015, @libero.it. L'avete sentito? Nuove professioni avanzano, anche se non è una nuova professione. Esatto. No, ma ripetila più forte perché secondo me non si è capito. Erotico italiano 2015, @libero.it. Viva i gigolò, viva le nuove professioni, viva la prostituzione libera e legalizzata. Ciao ragazzi. Assolutamente. A lunedì, ciao Parenzo, arrenditi. No, io faccio altre cose. Io cago addosso ai clienti. Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottercene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà. Fuccio a rossa! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.